Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Benvenuti, benvenuti al Serpente Corallo, benvenuti da Mauro Meazza, da Marco Lo Conte, da Stefano Elli. È l'ultima puntata del Serpente Corallo, questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia, speriamo insomma. Speriamo che l'ultimo, speriamo che vi abbia tenuto compagnia. No, speriamo che vi abbia tenuto compagnia, poi sul fatto che sia l'ultimo o no. Chi lo sa? Chi può dirlo? Chi può comunque dirlo? Ultima Beh, puntata. Beh, io lo so chi può dirlo, comunque poi va bene, parliamo. Per questa estate allora abbiamo cercato sempre di spiegarvi cosa sono i serpenti corallo, cioè spiegalo tu Stefano, cos'è un serpente corallo? Teoria del fortunale, lo dico un'altra volta. Allora, c'è il fortunale, è un nome bello che in realtà è molto carino, porta fortuna, è benaugurante. In realtà se ci finisci dentro è un temporale forte, quindi è finita. Oh, e questo sta a dire che il serpente corallo è una cosa magari anche graziosa, un animaletto che può anche suscitare, che so, tenerezza. Ma quanto sei bello, serpente corallo. Ah, come infatti canta la nostra canzone. Sì. Però, attenzione, perché poi il serpente corallo ti frega. Ma magari questa volta, che è proprio l'ultima puntata, lo spieghiamo come va a finire la canzone. Vediamo. Come va a finire la canzone è imperdibile. Restate con noi perché assolutamente... Apotropaico. Apotropaico. State buoni perché abbiamo cose più serie da fare adesso, più che parlare no, del nostro brano. Non è una parolaccia. Apotropaico è la funzione della canzone Serpente Corallo. Allora invitiamo tutti a cantare Serpente Corallo, ma prima di cantare Serpente Corallo io vorrei invece entrare nel tema della nostra ultima puntata. Oggi abbiamo deciso di parlare di bolle. Le bolle, perché le bolle sono quelle, no? Quei corsi di borsa dei mercati prendono il volo, ci sono quotazioni mostruose, bellissime, entusiasmanti, e poi tutto d'un tratto pam, puff, e arriva la fregatura. Insomma, fregatura. È un po' un serpente corallo, diciamo la verità. Direi che è proprio crudele come fine. Non è una truffa, lo chiariamo, però certo che la bolla filmatica. Dietro la bolla spesso c'è una balla, con rispetto parlando, con licenza parlando. Perché sennò non crescerebbero così tanto i corsi borsistici. Magari c'è un eccesso di valutazione del titolo all'inizio, quando viene attribuito un prezzo da un advisor. Lì c'è il serpente corallo, magari in qualche advisor che gonfiano un pochettino le valutazioni. Lì. L'advisor già bisognerebbe spiegare. L'advisor. Consulente, dai. Ah, il consulente, perché scusate che voi mi parlate sempre di queste cose così di finanza, io poi con l'inglese sapete che ho delle difficoltà. Eh sì, alla Bovisa è stato un po' complicato. È vero, io ho fatto le scuole tecniche e alla Bovisa? Non c'avevo l'insegnante di inglese adatto. Ma allora, torniamo all'italiano, perché vi stiamo dicendo, attenzione alle bolle. E poi spesso dietro le bolle ci sono delle balle, esatto. Cioè ci sono delle cose che proprio uno dovrebbe sospettare che non sono vere, perché magari suonerebbero anche verosimili, ma a volte sono davvero peregrine. Scusate, ma voi investireste in un titolo che come sottostante, come attività, vende lombrichi mangia rifiuti? Su due piedi direi di no, anche perché i piedi lombrichi non ce li hanno, ma insomma diciamo Eppure che... è successo, il nome... Come è successo? È successo che tempo fa, qualche anno fa, c'è stata una società che cedeva titoli di partecipazione di una società che appunto faceva Lombricus rubellus. Rubellus, cioè era rosso? Rubellus, esatto, perché... un po' come il serpente corallo. Ah, quindi c'era il rosso e il giallo. Era un serpente corallo ante litteram, allora, per restare sul latino. Non so che cosa stai dicendo. Come voi quando parlate inglese, la stessa cosa. Un lombrico corallo. Allora, sentiamo una scheda che abbiamo predisposto proprio per fare una rapidissima, piccolissima antologia, cogliendo così fior da fiore, anzi bolla da bolla, anzi balla da balla. Prego la regia di agevolare la scheda. Ogni truffa si basa su una o più bugie, come è facile comprendere. Ma ci sono alcune truffe ai danni dei risparmiatori che fanno della bugia il loro elemento principale, spesso proponendo inverosimili scoperte scientifiche, investimenti in attività inesistenti, collocazioni esotiche e improbabili. Un'antologia di queste truffe potrebbe sicuramente comprendere il Lumbricus rubellus, proposto a migliaia di italiani negli anni Ottanta del secolo scorso. La bugia chiave era quella di un'azienda fornita di un lombrico in grado di riciclare i rifiuti. L'azienda fu costituita per l'occasione, naturalmente senza lombrichi. E quel che fu davvero digerito furono i soldi dei creduli investitori. Ma ancora cogliendo fior da fiore in questo vasto catalogo, si può ricordare la truffa delle miniere peruviane di marmo nero, miniere da cui, nonostante i truffatori si presentassero con perizie geologiche e studi di fattibilità, non è mai stato estratto alcunché. Furono estratti invece 300 miliardi di lire dai conti di chi aveva aderito. Anche ai tempi della lira devo dire che le bolle, ma anche le balle andavano forte. E allora, non so, io a questo punto, guarda Marco, sì, siamo arrivati all'ultima puntata, sì, io sono sicuro che adesso tu mi proporrai l'intervista esclusiva con l'unico vero artefice, il cervello che sta dietro a tutte queste truffe. Certo. Cioè, sono 7 puntate con questa che tu mi presenti sempre questo signor Pipitone Broccoli, spacciandolo come l'artefice, il regista, l'architetto, il commercialista. Io sono un giornalista, ti porto qui un'intervista esclusiva con la persona chiave di tutta la vicenda. E tu la tratti così. Guarda, cioè, allora, ma... intendiamoci, perché io faccio il mio lavoro, ve lo porto, ve l'ho messo a disposizione. Cioè, veramente, se questo è il modo di valorizzare il lavoro dei colleghi, adesso ne dobbiamo parlare, perché non è possibile andare avanti in questo modo. Sentiamo, chiedo scusa per l'interruzione, prego la regia allora di mandare in onda questa intervista a Pipitone Broccoli. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, lei è Pipitone Broccoli? Mi chiamo Pipitone Broccoli. Ecco, volevo farle qualche domanda in merito a quanto accaduto nei decenni scorsi. Per quanto riguarda alcune, noi le abbiamo definite delle truffe finanziarie, sono state cedute e ceduti... Di equivoci. Come equivoci? Cioè... proprio truffa finanziaria, andiamo con ordine. Lei, mi dicono, è stato coinvolto, cioè, è io stato... ho cominciato nel 55-56, ho veduto 25 carri armati a Nasser in Egitto. Sì, ho veduto 25 carri armati. Ma a Nasser gliel'ha consegnati anche? No, lui li ha pagati, poi che è ancora lì che li aspetta. Ecco, quindi lei insomma ha una lunga carriera, ma lei c'entra con la storia dei lombrichi? Del lombrico mangia monnezza? No, quello è il mio collaboratore, uno che si chiama Berton. Niente. È un suo adepto, una sua creatura? Sì, un giovane brillante. Ma con la storia delle miniere del Perù, del marmo nero, sono 300 miliardi di lire sono volatilizzati ai tempi. Sì, ma poi è difficile dire quanti soldi, dicevo, perché questi danno in nero, non voglio sapere. Marmo nero, denaro in nero, è tutto in nero, però capisce, cioè lei ha approfittato della... creduloneria di personaggi anche famosi che hanno affidato a lei del denaro. Insomma, sì, tanto non vorrei fare dei nomi che poi si mettono in imbarazzo, che poi magari non giocano più al pallone o vengono qua a Radio 24 a fare delle robe. Ma alla magistratura quantomeno i nomi li ha fatti? Io? Ma io con il magistrato non ci parlo mica. Ma i magistrati vogliono parlare con lei invece. Vabbè, io non ci faccio mica trovare, anche se faccio, adesso vado arriva la convocazione. Io abito da lontano, da tante parti, adesso stavo alle Granadine, per esempio. Allora, diciamo che questa intervista è stata realizzata alle Granadine, che non è un... Prima che ci arrivasse l'FBI a chiuderci tutto con gli elmetti, tutte... c'avevamo anche una banca lì. Una banca? La banca. Perché noi facevamo le transazioni estero su estero. Estero su estero. Partivano i soldi a San Marino, arrivavano alle Granadine. C'avevamo anche una bella banca che si chiamava The New Bank Limited. E che cosa faceva questa banca? Faceva riciclaggio, non so che faceva. Lo sapevo, è lei che sta dietro poi, a tutta questa poi vicenda. Poi è arrivata l'FBI con i Mitraz, ha chiuso tutto quanto. Ha fatto bene probabilmente. Non lo so, dipende. Io poi ho aperto un'altra parte, Vanuatu. Vanuatu? La parte opposta. Cioè nell'Oceano Pacifico? Sì, dal Pacifico non sta al Tasmania. E lì glielo fanno fare? Ci sono anche gli abiti. Gli abiti? Di Tasmania. Tasmania, lo sapevo. L'hai capito? L'ho capito. Ma senta, ma la gente fa tanta fatica a risparmiare i soldi e alcuni fanno anche fatica a evadere il fisco per poi dare i soldi a lei e lei li fa sparire. Ma se ne rende conto? Noi facciamo fruttare. Sì, ma però una parte, fruttare quando va bene, ma spesso una parte se l'intasca lei, una grossa parte. Beh, io... su, devo anche mettere il pieno allo yacht. Cioè? Sai quanto costa il pieno di uno yacht? No, francamente non lo so. Allora si informa e poi viene a rintervistare. Cos'è? Fa l'intervista senza neanche sapere le basi. Lei non mi dica come devo fare io il mio mestiere, lei si occupi di come dovrebbe fare meglio il suo, però. C'ha mica 10 euro da prestarmi. Insomma, questa è un'intervista che ho contro fiocchi. L'abbiamo fatto, ho preso un aereo, sono andato alle Granadine, ho dovuto trovare la persona, convincerla a parlare. Sì. Oh, ma stiamo scherzando? Qui mi gioco non il Pulitzer, ma insomma qualcosa facciamo di importante. Facciamo così, ci fermiamo un momento, ne parliamo, intanto che c'è la pubblicità di questo pipitone broccoli, di queste interviste. Torniamo tra poco col serpente Il serpente corallo. Non lo fate scappare! Inseguitelo! Ma ha preso tutti i soldi! Il mio portafoglio! Ecco, eccolo il portafoglio! Che c'è? Fa vedere! Ti ha dato una coltellata! Grazie. È brutta, non hai bisogno di un dottore! Chiamo la polizia! No, no, niente polizia! Che sei, ricercato per caso? No, che vai pensando? Ma sei matto, girare con quel malloppo in un quartiere come questo? Sfido io che ti hanno beccato! Grazie, vi sono molto grato! Ma adesso devo andare! E questo è un dialogo tratto da La Stangata. Questa non è La Stangata, cioè il colpo micidiale che poi viene attuato nel film, ma è una specie di piccolo colpo che viene invece attuato per strada. Per quanti lo ricorderanno, era il film era proprio basato su figure di truffatori, un po' come il Serpente Corallo, giusto Marco? Diciamo che il Serpente Corallo versione cinematografica è ante litteram. Potevano anche chiamarlo in fondo il Serpente Corallo quel film, La Stangata. Perché l'hanno chiamato La Stangata, Stefano? Perché siccome era un film spagnolo allora gli piaceva di più la Stangata. È il golpe. Allora, siamo tornati al Serpente Corallo a parlarvi questa volta di bolle, ma anche di balle. Chiedo sempre licenza perché spesso, come sapete, dietro una bolla si nasconde una balla, che è quella che poi tiene in piedi la bolla. Addirittura, Stefano, io so che tu, approfittando dell'esperienza come giornalista di Plus, tutti i crack che racconti ogni sabato su Plus, sul Sole 24 sì, Ore. Sì, nei momenti liberi lavoro. Insomma, però con parsimonia, mi verrebbe da dire. Con parsimonia, cioè senza esagerare. Lavori senza esagerare. So che però, approfittando anche dell'esperienza che hai accumulato in queste nostre puntate del Serpente Corallo, hai stilato addirittura una classificazione dei tipi di crack che possono capitare. È ancora in divenire, ancora in fieri questa mia classificazione, perché ci sono sempre nuove forme, ci si adatta alla realtà. Beh, possiamo dare qualche anticipazione? Cioè, come classificheresti i vari crack che si sono fin qui veduti, e speriamo poi basta però, nel mondo finanziario, negli investimenti? Allora, noi abbiamo cominciato a individuare i crack, quelli che dipendono dal sistema, dai sistemi. Infatti li ho chiamati crack sistemici. Sono quelli che sono causati da una crisi finanziaria, di quelle globali, di quelle grosse. Vabbè, insomma, quindi un po' non è colpa di nessuno, è colpa di tutti. La Lehman, per esempio, no? Ti ricordi la Lehman, quella che degli scatoloni che tutti gli impiegati escono da... Quello lì è la tempesta perfetta, il cigno nero e così via, per frasi fatte, un più o meno. Quella roba lì, la brutta natrocola, non lo so. Il brutto natrocolo, no, il cigno nero, ma non importa. L'esuberanza irrazionale dei mercati, ricordi i titoli internet, quelli che venivano quotati in borsa con... Per Bacco, inizio del nuovo secolo. Dopo due giorni cadeva tutto. L'esuberanza irrazionale si rivela irrazionale. Questo lo diceva Greenspan, no? Ecco. Poi ci sono stati i crack che io chiamo eterodiretti, quelli del sistema bancario. Il primo caso è stato quello Cirio. E poi ce ne sono stati a catena tantissimi altri. Giacomelli, Laveggia, Finpart, ecco, Cerruti, tutta quella roba perché lì. Perché eterodiretti, dici? Perché c'è sempre stato il sospetto che le obbligazioni che sono state emesse da queste società qua in realtà venissero strutturate dal sistema bancario, che nei confronti di queste società avanzava dei soldi, come dicono a Brescia, anse targota. Cioè, avanti. Siccome le banche avevano dei crediti, avevano concesso numerosi crediti a queste società qua, per rientrare dei loro soldi, cosa facevano? Facevano emettere le obbligazioni e poi le collocavano a chi? Ai risparmiatori. Bravo. Ecco. E lì c'era il serpente corallo, però dentro. Questo era un grosso, serpente corallo organizzatissimo. Sì. Serpente corallo di alto livello. Altri tipi di crack che hai individuato? E poi crack implosivi. Tipico esempio: Parmalat. Parmalat perché è implosivo? In che senso? È perché sono dovuti alla falsificazione dei dati che portano all'erogazione del credito, poi si scopre che i dati di partenza erano falsi e tutto questo genera una specie di crollo verticale. E quindi il tutto implode, i conti implodono, ma soprattutto implodono gli investimenti di chi aveva affidato il denaro. Esatto. Parmalat, tra l'altro, se mi ricordo bene, i titoli erano ben quotati, avevano un buon rating, come dite voi altri lì della finanza. Lì no? C'è poi tutto il capitolo delle società di rating, Standard & Poor's, Fitch. Quindi insomma Moody's. Il serpente corallo si annida. Io capisco che il corallo si annida là dove meno te lo aspetti. Beh, nelle agenzie di rating credo che li allevino proprio come... come i leoni nel circo. Va bene, se avremo altre puntate del serpente corallo dedicheremo qualcosa anche a queste poi agenzie. Poi ci sono i sistemici. I crack sistemici me li hai detti. Ah, scusa, quelli del detto... il mis-selling. Il mis-selling, che cioè? È miss, io capivo sempre che era Miss Elling, no, cioè quello... la signorina Elling. Mr. Elling, no, no. Il mis-selling è tua cugina, mis-selling. No, mis-selling è un termine inglese. Che vuol dire? Non ho ancora capito, aspetta che guardo sul dizionario. No, vuol dire roba venduta male. Ah, cioè venduta però in modo fraudolento spesso. Ma non è detto che sia fraudolento, proprio male. E spesso questo non caso... ti spiegano bene i rischi che corri. Questo caso di mis-selling secondo me è quando, non so, uno è particolarmente poco avveduto nei casi della finanza, nei titoli, e gli piazzano degli investimenti tipico, coraggiosi. Tipo Argentina, no? O molto complicati. Argentina, un bond di Stato è una specie di bot, no? Una sì? BTP. Sì. No? Solo che anziché essere messo dalla Repubblica Italiana, è Repubblica Argentina. Beh, però sì, è ben diversa, perché l'Argentina aveva un merito di credito molto più basso, infatti i titoli avevano un rendimento stratosferico, ma era indice della poca solidità del paese. Ma se non ti avvertono... Infatti il problema è di chi te lo vende. Va bene. E poi ci sono i crude crack, quelli schemi Ponzi, e poi ci sono quelli che ti vendono panzane, ma di quelle, vabbè, sai, ne abbiamo già parlato prima. E allora, come avete potuto ascoltare, il fatto di cadere in qualche panzana gigante, in qualche bolla, che però potremmo anche dire, con rispetto parlando, in qualche balla, giusto Marco? Sì, perché poi basta un cambio di lettera come nella settimana enigmistica e il gioco sì, è fatto. E può capitare a tutti, non conta la cultura, non conta la preparazione, tutti si può essere a un certo punto così creduloni da investire, da mettere i propri soldi sulle cose sbagliate. Ma a questo proposito abbiamo al telefono Lia Celi, che è autrice. Buongiorno Lia. Ciao. Autrice, giornalista, autrice di libri, anche scrittrice. Perché abbiamo chiamato Lia Celi? Perché in un volume di pochi anni fa, che si chiama Mai stati meglio, lei è anche andata a pescare così fior da fiore l'aspetto di follia che può esserci negli investimenti, nell'economia in genere. Dico bene, Elia? Correggimi se sbaglio. Ma sì, era un modo anche per raccontare il lato pazzo e divertente dell'economia, diciamo, non divertente per chi poi è stato coinvolto in queste bolle. Io poi del resto sono una fan delle bolle di sapone da sempre, quindi l'immagine della bolla economica mi affascina moltissimo. Ma infatti tu nel tuo volume fai anche una divertentissima rassegna, adesso non abbiamo il tempo di rappresentarla tutta, di grandi bolle, ma si potrebbe anche dire di grandi balle nella storia dell'uomo, nella storia economica. Non so se vuoi darcene qualche così assaggino per i nostri ascoltatori del serpente corallo. Ma sì, per citare la famosa canzone di Rodari, per fare una bolla ci vuole un fiore, e questo è dimostrato dalla famosa incredibile bolla dei tulipani olandesi nel 600, quando ad Amsterdam potevi comprarti una casa con un bulbo di tulipani, perché c'era questa totale frenesia rispetto a questi fiori venuti dall'Oriente, affascinanti, erano diventati proprio super trendy nell'alta borghesia, uno status symbol, tant'è che il prezzo del bulbo era schizzato a vette incredibili, insomma. L'Olanda è il paese dei tulipani, ma è stato anche semidistrutto dai tulipani nel 600. Eh già, perché poi a un certo punto la gente, quando il bulbo di tulipano è arrivato a un valore tale che ci potevi comprare la casa, poi si è chiesta: ma che ci devo fare io con il bulbo di tulipano, più o meno, no? Che è successo infatti, circa quando così. Uno comincia a chiedere cosa ci devo fare, quindi diciamo, è la punta di spillo che fa che fa scoppiare la bolla, insomma, che ha lasciato sul lastrico veramente centinaia di investitori. Il peggio era che insieme a questi investitori che sognavano grandi guadagni c'erano anche i calvinisti seriosi e moralisti che facevano loro la predica mentre facevano la fila alla mensa dei poveri c'erano accanto questi predicatori calvinisti che dicevano: ecco, vedi, te l'avevo detto, te dovevi leggere la Bibbia, eccetera. Ecco, questo che, però, se possiamo consigliare di evitare magari di andare a fare la morale a qualcuno che ha avuto già un momento difficile, ecco, forse è meglio. Però io dicevo prima, l'unico bulbo da usare è la testa, diciamo, ecco. Perché sulla testa poi cade, e che testa, una mela, e lì cambia tutta la storia della scienza. Ma anche su quella testa, quella di Isaac Newton, insomma, anche lui è stato turlupinato da una bolla finanziaria, vero Lia? Sì, infatti, che non riguarda la frutta come penseremmo tutti, visto il suo legame con le mele, ma furono le azioni della South Sea Company. Ci avevano investito fino all'ultimo centesimo, ma crollarono miseramente. E il grande teorico della gravitazione universale non aveva afferrato che anche fra il prezzo delle azioni di una società e i suoi profitti reali doveva esserci un qualche legame, una qualche legge, insomma. E tra l'altro ha contravvenuto a una delle regole fondamentali, cioè mai mettere tutto il proprio patrimonio su una cosa sola, perché è ovviamente rischioso. Però stupisce che questi grandi intellettuali, che noi pensiamo completamente staccati dai vili interessi monetari, in realtà fossero degli speculatori anche spericolati, diciamo così, irrazionali. Beh, d'altra parte, scusami, le bolle e un po' anche le balle non hanno risparmiato nemmeno il Vaticano, non lo racconti nel tuo Mai Stati Meglio, nel tuo libro, perché c'è una truffa del 1800, di fine 1800, mi pare, che coinvolge addirittura il Vaticano, giusto? Diciamo che anche la cronaca recente ci ha insegnato che, insomma, il Vaticano non è esente da così, insomma, investimenti spericolati dalle peggiori cronache finanziarie. Però diciamo che nel 1882 fu nei panni della vittima, perché bruciò somme enormi nella bolla dell'Union General, che era una banca che doveva finanziare l'espansione ferroviaria nei Balcani. Che però erano un paese, almeno i Balcani esistevano, perché venivano a volte inventati i paesi, fidando sulla poca conoscenza della geografia di allora, si inventavano paesi in cui si potevano fare speculazioni incredibili, come il Poyais. Il Poyais era un paese sudamericano dove aveva fatto investimenti la Banca d'Inghilterra. E questo aveva provocato un altro crollo della borsa inglese nel 1825. Insomma, no, oggi ci va grassa, insomma, con le bolle del subprime, a confronto è una cosa veramente razionale e credibile. Beh, lì era più ingegneria finanziaria forse, invece qui erano proprio, scusate, io chiedo sempre scusa agli ascoltatori, erano proprio balle. Cioè, ma chiamiamole fake news, noi non abbiamo inventato niente. Fake news è fantastico, sì, potremmo chiamarle anche fake money forse, Marco, cosa dici? Sì, soprattutto quelli che quei money, quei soldi che credevano di avere in tasca questi investitori, ma d'altronde appunto non si inventa nulla, il passato ha costruito il presente, oggi quello che abbiamo di differente è la quantità di informazioni molto più numerosa sul mondo, e quindi da lì poi tocca a noi scegliere quelle giuste, perché di fake news ci inciampiamo sopra anche adesso, vedi Trump che cosa ci ha costruito sopra. Va bene, allora noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo, torniamo tra pochissimo sempre con Lia Celi qui al Serpente Corallo. A tra poco! Il Serpente Corallo. Ma quando sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati al Serpente Corallo. Siamo in collegamento questa mattina con Lia Celi per parlare di bolle, per parlare anche un po' di balle, perché spesso le bolle, come dire, si basano su delle balle, cioè su delle fake news, come ha detto Lia, vero Lia? Riassumo bene? Sì, infatti, questo è un, diciamo, meccanismo vecchio come il mondo, non abbiamo assolutamente inventato nulla, insomma. La natura umana non cambia, ci piace credere ai sogni, alle fortune rapide immeritate alla fine, no? Più che al duro lavoro. Il campo però, dei miracoli. Diciamo che secondo me il laureo consiglio da trasmettere ai nostri ascoltatori è quello del finanziere Bernard Baruch, che diceva: quando la borsa diventa notizia da prima pagina è ora di squagliarsela. Considerato che la borsa è in prima pagina tutti i giorni, insomma, le conseguenze tiratele voi. Beh, prendiamo un po' le distanze da questo. Certo, l'importante è tenere, come dire, qualche sospetto sempre acceso, perché il serpente corallo, cara Lia, come ben sai, può annidarsi proprio in qualsiasi bolla che poi magari nasconde una balla. Quindi c'è questa continuità, diciamo, tra le truffe e i serpenti corallo che noi qui cerchiamo di enucleare, di teorizzare a Radio 24, e le bolle di cui, ohimè, spesso... Dai, col flauto giusto, con la musica giusta si può incantare il serpente corallo. Grazie, grazie Lia, un buon proseguimento di vacanza, naturalmente, se sei ancora in vacanza. Grazie di essere stata con noi questa mattina. Ciao a tutti. E allora ricordiamo che tutto quello che avete sentito e molto altro è poi nel libro, appunto, di cui è autrice Lia Celi, e che si chiama Mai stati meglio. Ma dobbiamo proseguire, perché incalzano, caro Marco, le sì? nostre rubriche. Certo. E adesso infatti è il momento di una rubrica fondamentale qui al Serpente Corallo, ed è la rubrica del risparmiatore maleducato. Prego la regia di agevolare la sigla. Il risparmiatore maleducato. Oh, ma come sono contento, caro Marco, benvenuto, sì. benvenuto a Marco Loconte alla sì. nostra rubrica Il risparmiatore maleducato. Grazie, ero già qui prima, però no. in un'altra veste. Esattamente, Tutte le volte te lo fai dire, sì. prima eri qui come Marco Loconte, e basta. Ma adesso sei qui come Marco Loconte, autore di Il risparmiatore maleducato, nonché, ma possiamo forse anche dirlo, guru della maleducazione del risparmiatore. Non so se mi conviene, francamente, con queste trombette sotto, va bene, insomma, procediamo. Allora, guarda, quello che vorrei chiederti è questo. Stiamo parlando di queste truffe che si basano su delle bugie colossali, quasi inverosimili, difficili da credere. Ma, e abbiamo anche detto, tra l'altro, attenzione, perché non è detto che magari la persona più istruita o più avvezza al tema del risparmio, del denaro, sia anche capace di evitare la truffa, perché il credulone alligna in ciascuno di noi. Dico bravo, bene? Assolutamente sì. E infatti la creduloneria prende delle scorciatoie mentali nostre che sono molto diffuse, tanto che ci cascano fior di professionisti. Una famosa truffa di un 25 anni fa circa in Italia, in Sicilia in particolare, ha visto tra le vittime avvocati, medici, professionisti, ma perfino bancari, ossia proprio le persone che dovrebbero avere una maggiore, migliore cognizione del denaro. E invece cosa hanno fatto? Hanno dato i loro soldi a un signore che già dal nome si presentava, vabbè, insomma, poi il nome non si sceglie, il cognome chiaramente, si chiamava Francesco Succato. Sì, un nome che in Sicilia forse, un cognome che in Sicilia poteva essere imbarazzante, ma non era questo al il tema. Distratti forse dal cognome della persona, hanno accolto alle proposte che costui faceva. E che cosa diceva? Voi datemi all'epoca 100.000 lire e io fra 2 settimane ve ne do 200, no? Poi passava il tempo, queste 200 diventavano 400, le 400 passate altre 2 settimane diventavano 800. Era un mondo fantastico quello che... Ma cos'era, il campo dei miracoli di Pinocchio? In effetti così pareva. Evidentemente le cose sono andate molto molto male, non solo per le persone che hanno affidato bancari, medici, professionisti, avvocati, il loro denaro a questa persona, ma per questa persona stessa, che evidentemente ha toccato delle sensibilità che erano molto molto alte. E quindi è finito male. Ecco, sì. Finito molto male. Lo ricordo perché questa storia ha dato l'abbrivio ad Andrea Camilleri per scrivere un suo famoso romanzo, L'odore della notte, da cui è poi stato tratto il film, la fiction TV della Rai, con il commissario Montalbano, che racconta proprio la storia, appunto, di uno che promette e dà all'inizio tanti soldi ai propri clienti e poi alla fine scompare, proprio perché non riesce più a stare dietro a questo meccanismo che ha antiche origini. Ma infatti questo meccanismo è un meccanismo che in qualche modo riepiloga, riassume, riprende per l'ennesima volta l'opera del nostro ispiratore. Beh, ispiratore forse una parola grossa. Volevo farti ancora una domanda su un dettaglio di questa truffa particolare in Sicilia. Immagino che non ci fossero né ricevute né libri, non c'è niente. Ma due fogliettini poi si scrivevano, però sai, tra amici, parenti, sodali, alla fine l'importante era la stretta di mano. E poi quello che ha, quello che si chiama, i tecnici interpretano come, e definiscono l'illusione monetaria, il senso di emulazione. Questa, il motore di questa truffa era il fatto che lui dava veramente tanti soldi in mano dopo una settimana alle persone che gliene davano di meno prima, no? Per cui la gente, insomma, il passaparola nei paesi, nelle cittadine, ha fatto presto a divulgarsi, e quindi molti erano incentivati a dire: ma quasi quasi glieli do anch'io, altro che bot, altro che le banche, altro che le assicurazioni, ma diamole. Un guadagno del 100% in una settimana effettivamente fa gola. Attenzione, perché è proprio lì che più facilmente si nasconde il serpente corallo. Esatto, per emulazione, per illusione monetaria, per ingordigia, per avidità, insomma, si casca nelle peggiori delle zampate, dei morsi del serpente corallo. Ma questo, caro Marco, è proprio un altro caso classico di schema Ponzi. E allora, esatto, a questo punto siamo arrivati alla puntata in cui vogliamo celebrare, in qualche modo presentarvi la storia, per carità molto riassunta, di colui che è un po' l'ispiratore di tante truffe, lo schema Ponzi. Ora, il patriarca della truffa finanziaria. Il patriarca della truffa, mi piace. Allora, usciamo, lasciamo la nostra rubrica del risparmiatore maleducato. Posso restare? Sì, cioè devi uscire come risparmiatore maleducato. Ma come, resto come, però Marco, resti invece come Marco Loconte. E intanto ascoltiamo. Magari puoi uscire intanto che mandiamo la scheda e poi rientri. E poi rientro, va bene, a dopo. Ascoltiamo Vita e opere di Carlo Ponzi. Carlo Pietro Giovanni Giacomo Ponzi, nato a Lugo di Romagna nel 1882, è il truffatore a cui si deve il nome di schema Ponzi, un genere di truffa praticata da secoli. Lo schema, ampiamente utilizzato anche oggi, è quello della truffa piramidale. Il denaro versato dagli azionisti non è reinvestito in alcuna impresa e gli utili vengono pagati utilizzando i versamenti dei successivi acquirenti di nuove azioni. L'intero castello crolla quando le risorse in entrata non riescono più a coprire gli impegni presi. Emigrato in Canada nel 1903 e lì condannato per falsificazione di banconote, Carlo Ponzi passò negli Stati Uniti. Fu nuovamente condannato, questa volta per contrabbando. Ma il suo capolavoro è del 1919, quando Ponzi applicò lo schema piramidale ai francobolli internazionali prepagati, i tagliandi internazionali di risposta, creati nel 1906 dai paesi aderenti all'Unione Postale Universale, venivano acquistati dal mittente di una lettera, in genere gli emigrati negli Stati Uniti, che così pagavano in anticipo il francobollo per la risposta. A quell'epoca il costo della vita in Europa era molto basso e il prezzo d'acquisto di un francobollo equivaleva a un centesimo di dollaro. Ma le poste americane restituivano francobolli locali per un controvalore di 6 centesimi. Ponzi fiutò il business, ma anche la truffa. Il progetto prevedeva un investimento in denaro a 90 giorni, con un interesse del 45% sul capitale. In pochi mesi, 10.000 cittadini di Boston gli affidarono risparmi per un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di dollari. Ma lui non avviò mai la società. Utilizzò parte del denaro per pagare quanto pattuito ai primi investitori per dare credibilità al business. Ponzi divenne rapidamente un mago della finanza. Acquistò anche la quota di una banca locale, ma nell'agosto del 1920 non riuscì a sostenere le richieste di riscatto degli investitori e lo schema crollò, con un buco di circa 6 milioni di dollari. Ponzi venne nuovamente arrestato e condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per frode postale. vita, opere del patriarca, di colui che ha dato il nome alla truffa piramidale. La truffa piramidale ovviamente esisteva già probabilmente ai tempi delle piramidi, forse per questo si chiama piramidale, però Ponzi è colui che l'ha portata ai massimi livelli. E infatti ancora oggi, giusto Marco, si parla di schema Ponzi. Lo schema Ponzi è proprio questo, e infatti non a caso è vietata la vendita piramidale di prodotti, non solo finanziari ma anche altri, perché proprio questo meccanismo ingenera un elemento truffaldino, diciamo così. Truffaldino come esattamente la canzone dei Chapter 11, che sì, poi siamo sempre noi, sì, nella nostra veste di musicisti, che dà il titolo al nostro programma. Cioè, quindi io sono quell'autore risparmiatore maleducato, però sono anche il bassista dei Chapter 11. Esattamente. Devo uscire o posso rimanere qua? No, puoi rimanere, perché adesso facciamo sentire, perché vogliamo arrivare a svelare perché abbiamo scelto proprio il Serpente Corallo come titolo della canzone e della trasmissione. Io quanto sono invidioso dei nostri ascoltatori che hanno l'opportunità di scoprire queste meravigliose cognizioni che evidentemente non erano così note. Insomma, d'altra parte, Marco, noi siamo i Chapter 11 e colmiamo lacune. È ancora vuota, per dirla davvero, risponde il corallo con fare sincero. Poi sollevandosi sul suo codino mi dà un gran mozzico sopra la mano. È ancora vuota, ma lo sai perché? Perché ad entrarci sarai proprio te. Ma quanto sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. La la la la, la la la la, la la la la. Avete fatto caso a questo ritornello? Bene, ricordatevelo. Noi adesso ci dobbiamo fermare un momento. Dobbiamo, tra l'altro, Marco, andare a recuperare Stefano, che deve essersi perso sulla Brebemi come al solito. Secondo me si è rimasto lì bloccato. Vediamo se le informazioni sul traffico sono in grado di aiutarci. Trovatecelo. Per favore, lanciamo questo appello: se ci trovate Stefano sulla Brebemi, probabilmente è lì. Gli piace andare lì quando vuole stare da solo. Vediamo quali sono le condizioni della viabilità. Il Serpente Corallo ritorna tra pochissimo. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Dal 4 settembre vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, da lunedì 4 settembre, tutti i giorni alle 6.30, su Radio 24. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta... Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il Serpente Corallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Siamo arrivati all'ultimo blocco dell'ultima puntata, per il momento, del Serpente Corallo. E allora? Sig. Benvenuti, però vi ricordiamo, potete sempre risentire i podcast sul sito www.radio24.it. Potete continuare anche a scriverci, perché no, giusto perché Marco? Perché no? Certo, all'indirizzo serpentecorallo@radio24.it. La canzone dei Chapter 11, che sì, poi siamo sempre noi, sì, in nella nostra veste di musicisti, che dà il titolo al nostro programma. Cioè, quindi io sono quell'autore risparmiatore maleducato, però sono anche il bassista dei Chapter 11. Esattamente. Devo uscire o posso rimanere qua? No, puoi rimanere, perché adesso facciamo sentire, perché vogliamo arrivare a svelare perché abbiamo scelto proprio il Serpente Corallo come titolo della canzone e della trasmissione. Io quanto sono invidioso dei nostri ascoltatori che hanno l'opportunità di scoprire queste meravigliose cognizioni che evidentemente non erano così note. Insomma, d'altra parte, Marco, noi siamo i Chapter 11 e colmiamo lacune. È ancora vuota, per dirla davvero, risponde il corallo con fare sincero. Poi sollevandosi sul suo codino mi dà un gran mozzico sopra la mano. È ancora vuota, ma lo sai perché? Perché ad entrarci sarai proprio te. Ma quanto sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. La mia vicenda è: fidati pure dei tipo anaconda. Anche i crotali che fan baraonda non sono mica una cosa tremenda. Ma non fidarti mai, proprio mai, dei coralli che portano guai. Ma quando sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. E allora, giunti alla fine, vorremmo fare sostanzialmente due cose. Vi chiedo, Stefano, Marco, se siete d'accordo. Allora, sì. La prima no. È chiudere con una mia rubrica. Come no? Non sono d'accordo. Non sei d'accordo? Ma se non ho fatto neanche la proposta. Non ho detto... Va bene. Allora, la prima è chiudere con una mia rubrica, per un senso di megalomania che vorrei questo soddisfare, finalmente. L'avevamo capito e temo anche gli ascoltatori l'abbiano intuito. Ecco, però la seconda cosa invece che vorrei fare è finalmente rivelare perché abbiamo scelto il Serpente Corallo, ovvero come va a finire questa canzone nostra del Serpente Corallo. Cos'è che fa questo Serpente Corallo nella nostra canzone? Abbiamo spiegato in tutti questi fine settimana che i Serpenti Corallo sono animaletti graziosi, che si fanno ben volere, ma poi ti mordono, giusto Stefano? Vedo che ridacchi sotto i baffi e anche la barba. Ti mozzicano. Come racconta la canzone che adesso andiamo ad ascoltare? O facciamo prima la sigla, mia rubrichina? Non lo so, facciamo. Ciao, Fiume, mettetevi d'accordo però, perché va non bene, si può va fare bene la radio in questo modo. No, non si può andare avanti così. Mi avete fatto arrabbiare all'inizio, mi fate arrabbiare alla fine. Ma com'è possibile andare avanti in questo modo? Sì, io sono un risparmiatore educato, devo essere educato. Spegnilo, mi fate diventare ben educato. Spegnilo. Andrea, per favore, puoi mettere il nostro Serpente Corallo, grazie. La morale della mia vicenda è: fidati pure dei tipo anaconda. Anche i crotali che fan baraonda non sono mica una cosa tremenda. Ma non fidarti mai, proprio mai, dei coralli che portano guai. Ma quando sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei stronzo, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Dai, dai, dai. Allora, finalmente abbiamo svelato che cosa fa il Serpente Corallo della canzone. Ne approfittiamo anche per svelare i nomi dei musicisti che ci accompagnano in questa avventura assolutamente particolare. Maestro, Stefano, concertatore e allenatore in campo, Filippo Bentivoglio. Oh! E poi? Keyboards, tastiere, Alessandro Esposti detto Poto. Percussore di tutte le percussioni possibili, Mattia Bertani. E allora un ringraziamento davvero a questi musicisti che ci accompagnano, i Chapter 11, che poi saremo sempre noi, si esibiscono abitualmente, ci esibiamo abitualmente per beneficenza e si prestano appunto questi professionisti ad accompagnarci anche in questi giochi, in questi scherzi che facciamo, come quello del Serpente Corallo. Ma adesso il momento è serio, perché io vorrei partire per l'ultima volta con una delle mie rubriche, una rubrica a cui sono particolarmente affezionato. Quale? Quale? Comma profondo. Comma profondo. Nel 1934 mia madre ricevette in dote due buoni del tesoro di 5.000 lire ciascuno, tasso di interesse del 3,5%. In seguito, nel 1963-64 e nel 1980, i buoni sono stati rinnovati. Io ne sono venuto a conoscenza solo recentemente. Ho sentito dire che questi buoni non sarebbero prescritti e quindi ancora incassabili. È così? E allora, per quanto vi possa sembrare inverosimile, questo è un quesito che è pervenuto all'Esperto Risponde, la rubrica che presentiamo ogni lunedì con il Sole 24 Ore. Domande serissime, risposte altrettanto serie. Ci sono di questi casi di persone che rintracciano nei cassetti, nei bauli del nonno, vecchi titoli, vecchi buoni del tesoro e sperano. Ma che titoli erano? Titoli del tesoro italiano? Sì, del tesoro italiano. 1900? Degli anni 30, diciamo del 34. 34. Due anni dopo hanno fatto la legge bancaria, il testo unico bancario. Questo lo diciamo per far vedere che non siamo qui solo a dire delle stupidaggini, ma siamo persone preparate. Abbastanza, cioè voglio dire, non è che siamo qua. Poi c'è stata anche la guerra mondiale di mezzo e la persona, questa persona che ha scritto è rimasto stupito dal fatto che i titoli siano stati rinnovati a sua insaputa. Probabilmente lui è arrivato tutto questo solo molto dopo. Del resto, l'evento più recente risale, ohimè, già al 1980, e quindi ha già un po' di anni. Ecco, però dobbiamo deludere, perché l'esperto che ha risposto seriamente, l'esperto ha risposto e dice che questi titoli purtroppo sono prescritti, perché il capitale nominale dei titoli di Stato si prescrive in 5 anni. Da e così gli interessi. Cosa vuol dire prescritto? Prescritto vuol dire che non ce n'è più. Non va più? Sì, puoi usarli, puoi appenderli alla parete se vuoi, te li guardi, però non puoi farteli pagare. Tra l'altro la normativa è stata comunque rivista anche di recente, ma sia le norme precedenti sia quelle più risalenti, ha spiegato l'esperto da cui ho tratto questa risposta, ecco, l'ha spiegato l'esperto, impediscono, ahimè, di presentarsi alla Banca d'Italia o in qualsiasi altro istituto di credito per cercare di farsi pagare questi Posso titoli. Mi dispiace dare un dolore. Posso riallacciarmi? Prego. Nel mio settore, per esempio, nel settore delle truffe, girano tuttora dei buoni del tesoro emessi dalla Repubblica di Weimar. Di Weimar. Stiamo parlando della Germania pre-nazista. Sì. Quindi stiamo più o meno sul 34. Ecco, comunque possiamo anche dire non comprateli. Esatto. Non sottoscrivete questo titolo della Repubblica dell'occasione di Weimar. Per esortare la gente a tenersi alla larga da questo. Dai Serpenti Corallo e anche dalla Repubblica di Weimar. E allora siamo arrivati praticamente in chiusura, ma ci sono delle persone che ci hanno accompagnato in queste 7 puntate. Speriamo per voi piacevolissime, per noi ancora più che piacevolissime. Allora ringraziamo innanzitutto, cominciamo dalle signore, Valentina Ternullo, che è stata la nostra assistente, e poi Andrea Roccabella, insostituibile. Eccolo. In regia. Vi diciamo solo questo: non ci fosse stato Andrea Roccabella, tutto quello che avete sentito non poteva esistere. E infine Guido Scotti, che è stato il nostro allenatore, il nostro curatore, il nostro esortatore e anche un po' il nostro sgridatore, si può dire? Oltre che massaggiatore in campo. Massaggiatore in campo anche per Guido Advisor Scotti. Advisor no? Noi vi salutiamo, vi invitiamo a stare sempre lontani dai serpenti corallo. Sempre, sempre. Tenete conto che la canzone, così come questo programma, ha una funzione apotropaica, vero Stefano? Se sapessi cosa significa. È vero. È vero che è finito il tempo. È vero che è finito il tempo, perché sentendo la canzone, ascoltando questo programma, si tengono lontani i serpenti corallo, che sono quelle cose appunto da cui bisogna guardarsi, perché sono tanto belle e carine, ma poi nascondono la fregatura. E allora, da Mauro Meazza, da Marco Loconte, da Stefano Elli, grazie a tutti dell'ascolto. Scriveteci ancora se volete, serpentecorallo@radio24.it. risentiteci e sentite i programmi di Radio 24, www.radio24.it, e buona giornata e buon fine settimana a tutti dai Chapter 11. Ciao. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.